Giovanna. Sono io, Marco Lì. Chi è? Chi è? Chi è il sopravvissuto? Ciao Marco Lì, buonasera. Oh, Manuè, anche tu a casa? Mamma mia. Sono con i mudandi, in perigioma sono. Ah, male, non sto andando, c'è caldo, è inutile. Mi metto il ventilatore, almeno c'è un po' di tregua. E questo baracchino poi più nessuno, in nessun canale, è una cosa allucinante. Ma io che mi volevo regalare un altro baracchino. Per carità, no. No, comunque qua già sta tirando un po' di vento. Non c'è quel caldo appiccicoso come 2 giorni fa. Già si sta aprendo. Ma tu sei in alto, cioè le finestre ce le hai in alto oppure sei in una zona alta? Perché qua siamo a livello stradale, piano rialzato, quindi come scalda la strada ci sale tutto il caldo. Io qui adesso sono nel salone e qui nel salone, nel terrazzino, batte il sole tutta la sera. Vabbè, comunque non è mai come quei giorni, Quei giorni, quando era una settimana fa, 10 giorni fa, era allucinante. Adesso, certo, non c'è paragone, adesso sta meglio. Sì, no, è un caso in alto. Sono piano terra che è in alto. Sono a piano d'asfalto, sono come te. Ah, vabbè. Magari zona più aperta, perché ha detto che c'è più arietta, no? Quindi... quello sì, pure che sia più ventilato. Qua invece siamo stipati tre palazzi, uno attaccato all'altro. E anche qua è così, Marco, anche qua, solo che un po' di arietta già entra, rispetto agli altri giorni che si soffocava a stare dentro. E via. Quindi stavo ascoltando un po' i radioamatori, così Ponte Cisar, poi c'è un radioamatore che sta facendo DX con la Francia, mi pare, roba in VHF così, per passare il tempo. Prima mi stavo zuffando al computer, stavo stampando roba INPS per mamma, più il cedolino, tanto per averlo. Ci è arrivata la password all'INPS, ho scaricato le 7.30 precompilato, così non dobbiamo andare più né alle poste né all'UBU. Bello, già pronto. Vabbè, almeno si è a posto. No, io ho appena acceso, sto guardando, infatti in banda laterale c'è in USB, c'erano questi francesi qua, quello che stavi dicendo tu, e anche stamattina, infatti ho fatto una bussata, mi sentivano lo stesso, e arrivavano abbastanza forti qua. Ho sentito che c'era un pochino di propagazione. Per esempio, oltre il 30 ci sono i, come si chiamano, quelli che parlano portoghese, i portoghesi, solo che fanno un casino, sono sempre a bozzi, macello, credo che usino anche potenze elevate, perché anche con poca propagazione loro li senti azzicchiati, sicuramente hanno qualche kilowatt sotto. E sicuramente qualcosa sotto ce l'hanno di sicuro, ma non 100 watt come usiamo noi. Vabbè, io non uso proprio nulla, però loro dai 100 in su li mettono, non ne mettono briciole per farsi sentire. Come mi ascolti a me, Marco, sto usando un'altra radio io. Il segnale grosso modo è 9+15. E non capivo se era rauca la tua gola o se era leggermente rauca la modulazione, cioè che sia la radio che fa quell'effetto. No, è la mia voce, Marco, è la mia voce rauca. Io ce l'ho afona, da un po' di tempo afona, perché io faccio sempre mi frega sempre nello stesso modo, cioè io torno accaldato da fuori, quindi mi tolgo tutto, quasi tutto, a parte, vabbè, le mutande, solo che poi sto o con ventilatore a destra manca, quindi mi si raffredda il sudore addosso, e la prima cosa che mi fa è mi prende alla gola proprio, mi viene la voce afona. Pensa che una mattina, se avevo la voce così, non riuscivo a parlare quasi. Non ti ho sentito, Marco. Ehi, ti stavo imitando la voce che avevo, così, se avevo la voce così, non riuscivo a parlare proprio. La voce a papera, sembrava il padrino, mi Marlon Brando nel Padrino. E parlava tutto, la famiglia. Vabbè, comunque, no, perché sono entrato stamattina e mi hanno detto che questa modulazione usciva a tratti, ma io a tratti, no, ma non sento a tratti. No, al momento no, a meno che non te lo faccia a freddo. Oh, Manuel, a freddo alle volte, boh, certe radio devono un po' quagliarmi, come si suol dire, devono un po' assestarsi. Cos'è, radio vintage oppure moderna? Vabbè, con l'altra sarà un po' più squillante perché c'è il doppio modulatore e quindi uscirà più forte, sì, con l'altra radio. Questo qui è un microfono normale e quindi no, penso che uscirà più bassa di modulazione. Allora, sì, non hai quella modulazione fortissima che hai di solito, però certe volte è meglio così, perché l'altra modulazione, Manuel, è troppo forte, cioè per parlare tipo salotto come facciamo noi, magari devi abbassare per te e alzare per un altro, capito? Soprattutto di notte, io di notte avevo problemi. Ecco perché non sto entrando la notte, perché magari c'è uno con la modulazione fortissima e l'altro che lo sento appena di voce, e quindi devi stare alta e bassa. Adesso capisci perché uso sempre il mic normale. Primo, perché esce limpido, non li introduce nessuna timbrica lonfia, e poi perché nessuno si è mai lamentato, né troppo forte né troppo bassa. Ma quando sono qua che sono vicini si lamentano che forza, passa, tira, molla, che cazzo. Che poi si può regolare, no? C'è il microfono, l'equivalente, basta metterla a puntino. Che io non amo le modulazioni spacca orecchie se dobbiamo fare salotto. Una cosa è se devi fare DX, allora bisogna pompare un po', farsi sentire. Ma come parliamo così di cose comuni, insomma. E tu, Manuele, stai andando a pescare, stai andando al mare, qualcosa stai facendo? Ma che a pescare in mare, Marco, il salto trovo bloccato con la gamba, dalle gambe alla schiena. Ma roba reumatica, tipo incidente, sei caduto, no? No, ernia del disco, e quindi ogni tanto mi prende dal bacino fino alle gambe, non riesco neanche a piegarle. Oia, se ti faccio vedere la radiografia della mia schiena ti metti a ridere, guarda, le lacrime ti vengono, sembra un punto interrogativo, sembra. E anch'io non ce l'ho messa bene, anzi tutt'altro, perché anche non ho mai voluto fare sport, e uso come androne un po', lo dico, però, vabbè, io conosco anche altra gente che comunque non ha mai fatto nulla, né sport né cose, e c'ha la schiena che è un bijou, vabbè, e che te devo dire? No, anch'io non sto andando né mare né niente, poi per la pesca io una volta ho la passione, andavo anche di notte, poi mi sono rotto le scatole, un'umidità terrificante, perché poi non è che andavo solo in estate, andavo anche se necessario autunno, inverno pure, e mi ricordo l'umidità folle che c'era, il freddo, ti dovevi mettere due maglioni sopra, se non tre, insomma mi sono rotto le scatole, quindi c'ho ancora le canne, però c'ho i mulinelli tutti da buttare, con salsedine, rugginosi, non vale la pena di stare a pulirli, vediamo. Sì, per uno che è appassionato già ci va, ma io che sono anche a piedi, non c'ho macchina, e ce l'ho la patente, ma non c'ho il mezzo, e niente. Adesso vediamo se mi passa questo po' di mal di schiena, di gambe, vediamo un po' andare a farmi un giro al mare, almeno qualche giorno me lo voglio fare. Ah, non hai nemmeno motorino, scooter, qualsiasi cosa, no? Niente? No, proprio a piedi, ma qui, come ti dico in sassarista, a piedi. Volendomi, se proprio vuoi andare, passa un biglietto del tram fino a Piazza Mona, la rotonda ti porta, anche i pettini credo che copra. Quello che passa dalla Budibudi mi pare fa tutti i pettini, però non è la stessa cosa. Lì ti sparano, come si attaccano alle sbarre, ti sparano, lascia la sudata in faccia, per carità. No, infatti aspettare il tram, perché lascia perdere, va. Che qua passano, non si sa quando passano, perché dicono un orario e una culina quando vuoti. Infatti una volta l'ho preso qui dalla Butti e c'ero più di un'ora e mezza a aspettare questo tram. Sì, a meno che non abbia saltato qualche corsa, io non mi ricordo. Vabbè, se in estate fanno più corse, mi pare il doppio delle corse. In inverno no, le dimezzano se non di più. Un'ora, anche un'ora e più di attesa, sì, probabile, dipende. E io ho la moto, lo scooter, moto, non è una moto, è uno scooter 125 in garage, se ne sta ridendo. Nuovo, l'ho fermato lì, non è più usato, l'assicurazione mi costava troppo per le mie misere tasche, e quindi è fermo due anni e mezzo. Poi c'ha, vabbè, la batteria da cambiare, la revisione da fare, però fatto quello funziona. È che non mi fido più degli altri. Ma hai visto tutto quello che succede? Ti vengono addosso. Tu puoi essere il più bravo alla guida della moto, il più bravo di tutti, però se ti vengono addosso gli altri, a chi sono embriaghi o fatti o peggio, per carità. Peccato, però c'è bombe di attrezzature, di caschi. Boh, adesso vediamo cosa fare, ci sto pensando me. Se riesco a racimolare qualcosa fra qualche mese lo rimetto in funzione. Ma che scooter o della Honda o Marco? No, è un Piaggio Liberty 125. Quello, le ultime versioni, non quello con l'aspetto femminile, no, quello più figo. Color grigio acciaio. Era seminuovo, porca miseria, c'avevo anche il parabrezza, un bijou, non prendevi un filo di vento, soprattutto in inverno, col freddo, no? Solo che io sono scemo, eh? Qualcuno ha suggerito di fare l'assicurazione online, quelle senza andare agli uffici qua, no, perché loro non pagando dipendenti, uffici, ti fanno prezzi mai visti qua a Sassari, qua ti spennano. Sì, troppo caro l'assicurazione, infatti per quello ho morto per poco e niente. Chi è che vuole entrare avanti? Avanti sono 10. Ho sentito una porta, non lo so. Comunque troppo cari Marco l'assicurazione. E anche per quello che ci vuole un mutuo, ci vuole adesso per fare l'assicurazione, polvere e tutto quanto. Tenere un motorino nel cavo. È vero. E il bollo non me ne parlare. C'ho due bolli arretrati, se non tre. Spero che poi me li mandano in cartelle esattoriali tutti assieme. Mamma di turchi. Okay, grazie che non ti arrivi qui in Italia. Sì, arriverà, infatti, arriverà. E anche quello da sanare ci sarebbe. Che peccato però, boh. C'avevo casco jet nero, bianco, c'avevo anche l'integrale, se vai fuori città, anche se un amico mi ha detto, cosa di vai dell'integrale? Tanto tu non corri, ho detto, vabbè, ma a seconda di che caduta prendi, se cadi di faccia con il casco jet ti disintegri la faccia, ti sparisce la faccia, l'integrale almeno ti protegge tutto anche se cadi di faccia. Sì, quello già è vero, solo che cazzo se ti metti questo casco integrale pure con questo caldo qua, mamma mia. No, infatti, quello va bene per l'inverno, insomma, no, ma in estate non lo tollero nemmeno io, in estate ci muori dentro, comunque anche quando avevo la moto un po' migliore, no? Un Honda 400 di quegli anni 70, io andavo in maglietta, cioè in ciabattine, pantaloncini e maglietta al mare, coso. E sai che i motociclisti, no, quelli veri, dice, ma no, tu non puoi andare, è pericoloso, se cadi, se tu ti apri la pelle, cioè loro andavano in piena estate, giubbotti in pelle, tutti bardati, stivali, ha detto, ma non ti nada, dimmi che sto andando al mare, ho detto, non sto andando al Polo Nord, no. Se cado, pazienza, assaggio l'asfalto, che è bello dolce. Già è bello, sì, già è bello, sì, vabbè, io per il momento moto non ne ho, macchina la stessa, quindi non ci avrò la possibilità, un motorino, una macchina la prenderò, quando sarà. Ehi, poi 50 non te ne dico niente, i miei motori di 50. Lì l'assicurazione è infinitamente più cara perché dicono che è una fascia di mezzi che hanno più incidenti perché li usano i ragazzini, no? Che fanno casino e fanno meno incidenti. Boh, ma anche se quella non è una cosa giusta perché cioè, se vedono che sei adulto, che sei assennato, boh. Cioè, una volta ha detto, cosa mi ne affutte a me degli incidenti degli altri se prendo un cinquantino? Ma così, ma cioè, praticamente l'assicuratore ti fa capire, se ti piace è così, se no, ti si rivolga un altro. Capito? Vabbè. E io mi ricordo, Manuel, che fino al, che anno era il 90, d'intorno, mi pare, 89-90, io avevo il super ciclone, allora non esisteva la targa, non esisteva la targa. Non esisteva l'obbligo di assicurazione, non esisteva l'obbligo di casco per chi maggiorenne, io ero già maggiorenne, era un paradiso, cioè era come avere la bici, poi ha cominciato subito dopo il 90 a introdurre targa, assicurazione, casco e non te ne dico. Il bollo poi era una miseria, il bollo del cinquantino era una cifra simbolica, io non vorrei sbagliare, tipo 5-10 mila lire, una cosa simbolica era. Era un paradiso, poi hanno cominciato a stringere il cerchio e vabbè. Sì, sì, dopo i 90 è uscito questa legge qua del casco, che poi per carità ci sono più disastri col casco che quando uscivamo senza casco. Il ciclone me lo ricordo, ce l'avevo anche, l'ho usato, ce l'avevo anche io, si può dire. Quella a 5 marce c'avevi tu, Marco, cazzo poco camminava. Allora, purtroppo no, perché io sono rientrato in quella fascia di tempo, avevano limitato da 4 o 5 marce a 3 marce. Guarda che era molto brutto, molto brutto. Cioè la prima la dovevi tirare un bel per passare in seconda, e lo stesso prima di passare in terza conveniva a tirare anche la seconda, cioè tre marce erano poche, almeno quattro potevano fare. E non mi ricordo il perché l'avessero fatto questa cosa qui, forse per non rendere questi ciclomotori troppo performanti, no? Perché, anche per chi li truccava, che poi faceva dei mostri. Comunque Emanuele, tu hai avuto il ciclone, ciclone, io ho avuto il super ciclone, guarda, assomigliava, era un po' più così gigionesco, c'aveva le carene, assomigliava al 50 top, capito? Era più carenato del ciclone normale, cioè, il ciclone normale non era carenato, era lo Dubu che faceva da serbatoio e boh. Sì, bravo, bravo. Il ciclone era quello col tubo solo e c'aveva due asticelle ai fianchi per appoggiare i piedi, mi sembra, che poi non li appoggiavi mai, li appoggiavi sempre nelle pedaline. E c'aveva questi cerchi arancioni, rossi, sì, già è quello. Cazzo, camminavano quella motoria, Marasius, camminavano. Quello lì l'aveva fatto fare preparare il motore da Marco Serra. Cazzo, un razzo vedete, siamo. Mi pare che vada al minimo 140, 150. Scusa, ma noi che sto bevendo, Ho almeno portato la bottiglia. Allora, beh, oddio, quello sì, poi sai, le marce ti permetteva di sfruttare meglio la potenza del mezzo, ma tre marce era una rottura di palle, Era una rottura di palle. A parte che quando l'ho preso nuovo c'era la strozzatura, no? Io non avevo mai portato di moto, a parte un ciao, no? Un sì della Garelli avevo provato, per un po' di tempo. E cosa stavo dicendo? Insomma, per fare il rodaggio, ci dico solo che in Viale Trento non riusciva a salire questa moto, si affogava. E allora, lui, sai cosa, il venditore consigliava di tenerle fino a fare il rodaggio. Ma questo non fa le salite, no, non ce la fa, non ve la vadi. Allora le ha tolte. Io non ero abituato, mi ero abituato al sì. Cazzo, toglie le cose, fiocca e concas lì, come vado a partire, a giù me ne vola da sotto. Perché io ho girato la manopola nell'aria come quando era affogato, no? Cazzo, si è impennato me. A giovane rimane ancora a terra e la moto andava giù. Sì, non me l'aspettavo, C'era un abisso, naturalmente poi andavo sempre piano, non troppo alto di giri per fare il rodaggio al motore, eccetera. E la miscela me la facevo io, perché purtroppo rispetto agli scooter, rispetto ai malaguti, non aveva il miscelatore dell'olio. Non avevo il serbatoietto dell'olio, no, che la miscela ce la faceva in automatico. Invece mi dovevo appentare. Mi portavo la tanichetta, oppure mi portavo la boccetta predosata della benzina, no? In base alla 5 euro che mettevo, gli calcolavo l'olio da mettere. Come mi riforniva, mettevo la boccetta dell'olio, gli davo una bella gittata, oppure me lo preparavo in garage, comunque era una rottura di balle. E la miscela me la facevo al 2,5%. La volevo appena appena più grassa, in modo che il motore non sforzasse mai. Io la facevo fare sempre al 3, sempre, anche se era 50 la moto. Sempre al 3, per essere più grassa, più densa. Via. Poi vabbè, questo superciclone l'avevo dato, era grigio di colore, con delle specie di serigrafie colorate sulla carena, insomma. Era l'ultima versione del ciclone, diciamo. Tutto, vabbè, frecce, luci stop, cioè funzionava tutto. L'unica seccatura che era a pedivella la partenza. Mi pare che alcuni 50 top Maraguti addirittura avevano l'accensione elettrica. C'è il motorino avviamento avevano, però quelli non mi piaceva, sai che cosa? Il raffreddamento a liquido. E tu mi dici perché? Perché sì, è efficiente il raffreddamento a liquido. Però poi, prima o poi, come la moto magari invecchia o in base a qualche caduta, magari il radiatore comincia a bucarsi, a perdere, le guarnizioni perdono acqua. E quindi l'ho preferito raffreddato ad aria. Niente tubi, niente radiatore, niente sorprese. Infatti è andato sempre bene. L'avevo venduto praticamente semi nuovo, per non dire nuovo, e mi avevo preso il Kawasaki 250. Era una bella moto prima, adesso sono il cazzo tutto tanto plastica. Tutto plastica era, prima già erano belle le moto, la Vespa, il Ciao, il Sì, e quella sua moto che ho avuto, Vespone. Ho avuto anche quella 125 primavera, erano tutta una cagosa, ma cazzo, descrivo una di chi è tutto carena di plastica. Eia, vabbè, anche quella era plastica la carena, o plastica o fibra di vetro, non mi ricordo. Però poi tutto il cuore, come il ciclone, era tutto metallo. solo che mi ricordo che all'epoca stavano uscendo già i primi scooterini tipo Yamaha YZ, quelli piccoli piccoli giapponesimi, cioè scatta il verde, ero pronto a, no? Marcia in estate, pronto a spuntare, appena scatta il verde, questo con lo Yamaha YZ, sti scooterini, cazzo, apre il gas, ha fatto sparito all'orizzonte, io ancora ero a spuntare. Gli scooter hanno uno spunto pauroso perché hanno quella frizione centrifuga o variatore, come lo puoi chiamare, hanno uno spunto incredibile. Io il coso era bello lo stesso, quello che stavi dicendo tu, però l'altro modello, l'altra versione, il 50 Top, che c'aveva solo la mascherina davanti dove c'aveva il faro. Sì, cioè quelli un po' precedenti, perché gli ultimi 50 Top lo stesso erano carenati, vabbè, belli. Certo, io non avrei mai preso di colori spramati tipo rosso, no, io ho visto questo grigio ferro tipo, poi c'erano queste linee colorate, vabbè, ho detto pazienza, perché i 50 Top in vendita erano rossi, erano pugnaocci, troppo per ragazzini piccoli erano, no? Vabbè, e comunque questi con gli scooter ci facevano il mazzo, cioè di serie, scooter di serie, ciclone di serie, avevano uno spunto incredibile. E poi adesso trovi solo scooter, non ne trovi più ciclomotori a marce, non credo proprio, credo che sia scomparso tutto, no? Sì, infatti, adesso sono tutti lunghi con questo T-Max, Evolution, X9, sono tutte moto, tutte scooterone che accelereggi tu, e sono moto che cambiano di silvermani, diciamo a poco sono galattrici, a chi pesa un trono. Quelli sono scooteroni, quella è roba che tira pure, solo che sono pesanti, cioè io in città volevo una cosa proprio per città, anche un cinquantino se non fosse per l'assicurazione, capito? A me sarebbe andato bene anche lo Jeep, purché nuovo, comunque, o seminuovo, dai. Solo che alle ruote piccole, e ho visto, cioè, non mi è piaciuto, ho visto gente prendere stampate per nulla, mio, quelle rotine. Invece il Liberty ha le ruote grandi, si fa guidare. Comunque io mi sono trovato male, perché prima avevo moto pesanti, no? Dove c'avevi il peso del motore davanti alle gambe, no? Cioè la ruota davanti era ben piantata. Come sono passato a questi scooter, cioè il motore ce l'hai dietro, davanti l'avantreno, cioè il manubrio ti balla, è leggero, ho detto mamma mia che cosa pericolosa. Sì, Liberty, già era bello il Liberty lo stesso, anche la sfera, te la piaccio, e lo stesso più o meno le ruote erano quasi simili a quelle dello Zip, più o meno erano così. Ah sì, lo sfera, è vero. Caspita quanto tempo è passato, un bene se non ne hanno fatti queste scooter. Poi c'erano quelli scooter strani, tipo, a me piaceva da morire, l'MBK, come si chiamava? Il booster, quello azzurro e bianco, te lo ricordi, strano, con le ruote un po' tacchettate, che figata che era. Sì, l'ho avuto anche io quello, l'MBK booster, c'aveva le ruote larghe, tuttora ci sono ancora. Oh, li vendono sempre, caspita. E poi ricordo che se lo toccavi, se riuscivi a fargli delle migliorie, ogni potenza, mamma di turchi. Avevo anche l'F10 che l'avevo comprato su via Napoli, allora c'era, non so se c'è ancora quel negozio lì, proprio alla fine di via Napoli quasi, vicino al semaforo. E avevo comprato lì l'F10 rosso amaranto, e col telecomando cazzo metteva in moto la moto dal telecomando. Sì, me lo ricordo. Sì, quello dovrebbe essere Fiocca, mi pare che si chiamasse Fiocca, oppure Fiocca e Concas, ed è lì che nell'89, quasi 90, avevo preso il super ciclone. Vabbè, forse avrei fatto meglio a scegliere uno scooter, ma sai cos'è? Quelli di Ciclone, Garelli, cioè volevo roba italiana prima di tutto per i ricambi. Se non che poi la Garelli non è durata molto. Credo che se ancora esiste è stato riutilizzato il marchio Garelli, ma sono moto cinesi. Che io sappia sono moto cinesi marchiate Garelli. Però di Garelli non c'è più nulla, capito? Il Garelli, la prima moto che ha avuto era il Ciao, quello col faro. Quello col faro nel parafango, il primo Ciao, che aveva il faro un po' tondato, non era rettangolare. Poi ho avuto l'altro, cavolo si chiama, il Garelli a tre marce, però quello a mano, non quello a piede, non so se era un VIP, mi sembra che era. Sì, quante marche che c'erano, adesso non so se sono più Attala, ti ricordi? Poi di scooter, tipo Ciclone cosa c'era? Tu te lo ricordi quell'altro? Era un po' più zonco, il Califone della Ricciatto. Mamma mia! Quello lì ce l'avevo un amico mio, il Califone, e tutta la ceramica, questo babugamina, e che c'aveva la bandierina, una specie di bandierina nel parafango. E i parafanghi erano grigi zingati. È passato tempo, non me lo dovrei rivedere le foto. Io mi ricordo che c'erano anche degli accessori che qualcuno comprava, no? Originali o non. Sai cosa vuol dire pastorizzato? Cioè certe cafonate avevo visto. A Dio mai uno si era messo la sella, il poggiaschiena alto, tipo chopper. Ma vai! Cazzo, proprio da pasciolazzo lui, Dani Bruce. Poi un classico era, vabbè, quella era una cosa più banale, proteggeva anche il vetro, era il coprifaro con la retina di plastica, no? Però a me non piaceva assolutamente. Roba del genere, io nuda e cruda, così come l'ho comprata le moto le ho lasciate. Almeno lo scooter, il Ciclone. Però io ero fissato, specchietto destro e sinistro, cioè volevo vedere bene chi mi superava, chi ti superava a destra, non sono di chi che ne bugavano i dutti, specchietti, frecce, no, io volevo che fosse a norma. Ah, una cosa che non ti ho detto, all'epoca l'assicurazione non era obbligatoria, però se la volevi fare, la potevi fare, così se avessi danneggiato qualcuno io di tasca non ci mettevo nulla, e costava una miseria, costava 50.000 lire all'anno, cioè tu con 50.000 lire stavi tutto l'anno a posto, potevi sbatterti a destra a manca, investire jet, per modo di dire, no, e avrebbe pagato l'assicurazione. Cioè non capita perché ero prudente, però se fosse successo di toccare qualcuno, di fare danno, ero coperto. Però prima i prezzi erano più umani, dopo sai cosa, ci voleva un freno ai prezzi che ti danno, che fanno gli assicuratori. Cioè, loro possono fare i prezzi che vogliono, capito? Guarda che avevo sentito chiedere per un cinquantino, ti parlo di tanti anni fa, quando era diventato obbligatorio, per un cinquantino c'era un'assicurazione di quelle legate alle banche che voleva 750.000 lire all'anno, e non se ne fa, per un cinquantino. E io ho detto, ma voi siete malati di mente, mi costa quanto la moto stessa l'assicurazione. Infatti avevo lasciato perdere, cinquantini non ne ho più preso. Prima costava, anzi prima costava un poco, adesso per assicurarlo ci vogliono quelle 500 euro quasi, ci vogliono tutte per assicurare un cinquantino. Sì, infatti tutti consigliano di prendere oltre il 50, tipo classico un 125, uno scooter 125, poi non so se ci siano cilindrate intermedie tipo 80, qualcosa credo di averlo visto, però tanto vale pigliare un 125. Che poi mi Liberty comunque non è che corre, cioè non è una moto fatta per correre, è uno scooterino per la città. Invece sai quale è più spinto? Il concorrente principale, come si chiama? L'Aprilia SH125, quello stessa cilindrata, ma quello è più spinto come motore, forse c'è un carburatore più grosso. Sì, c'era l'Aprilia, c'era il Mito 125, certo camminavano spesso, c'era l'altro, non so se l'hai conosciuto tu, l'NSR dell'Honda, quelli lì erano molto che cazzo camminavano a vino, ma camminavano. Ah, quelle carenate, sì. Guarda, ce n'era una che sembrava la moto di Batman, sempre stiamo parlando fine 80, inizio 90. 125, due tempi, pari alla botta di Batman. Carenata, ma era strana, mi sembrava una cosa spaziale, una cosa lonfia, scura, nera l'avevo vista. Magari è quella che hai nominato tu. Comunque a me le carenate, cioè quelle corsaiole non mi piacciono, perché proprio mi dava fastidio il serbatoio sulle palle, dovevi mettere il busto in avanti, protendere le braccia in avanti, poi io che ho le gambe lunghe, le pedaline erano ben in alto, dovevo rannicchiare troppo le gambe, proprio brutta. Guarda, a me piacevano le moto anni 70, tipo Kawasaki, Honda, oppure moto custom che tu allunghi le gambe, hai visto con le custom, praticamente rispetto a dove metti le chiappe, le pedaline ce le hai un po' più avanti e sei con la gamba ad angolo, bella rilassata, sono basse di sella, anche sono belle, però poi alla fine mi è passata anche quella passione delle moto. Quelle sì, quelle già sono belle e tuttora già ci sono, però quella moto lì ormai hanno fatto la loro vita, quelli lì che ce li ha, se le tiene come soprammobile le tengo, però sono molto molto belle. Poi ci sono anche cilindrate non troppo esagerate, per esempio la XV535 Virago, a molti non piace perché era piccolina, no, compatta, come era tipo una 883, no, come grandezza, anche più leggera. A me piaceva, perché deve essere comoda anche la moto, non te la vedi che si barasoni tipo la Vulcan 1500 la cilindrata, praticamente c'è un motore di macchina, se tieni i gaggi sulla gamba, poi peserà 2,5 tonnellate quella lì. Quella pesava. Ma ho sbagliato. No, scusa Manuel, ho sbagliato, ho detto 2,5 tonnellate, volevo dire 2,5 quintali. 2 tonnellate sarebbero e mezzo, 2500 kg. No, peseranno 250 kg, troppo. Ne avevo anche di più, dipende. Poi se sono Harley Davidson non ti ne dico nulla, mi Fat Boy, quello è tutto acciaio, quella non è a plastica. È un macigno quella moto, però se tiene i gaggi. E si tiene i gaggi sulla gamba pure. Conosco un ragazzo che ha potuto fare un bel di operazioni per la gamba, si era fatto malissimo. Sì, la moto è bella, però cazzo, carico una moto del genere, di sicuro non ti fai bene, ti fai male. Infatti io quando usavo le moto andavo sempre piano, non è che ero uno che gli piaceva tirare la moto, capito? Sì, dove si poteva tirare si tirava, ma dove non si poteva ero proprio piano piano, camminavo nelle curve, c'erano amici miei che cazzo erano proprio spericolati, proprio pazzi con la moto. Aspetta, c'è qualcuno su 10 avanti? Chi è questo Marco? Giù Giulio, Giulio, attento, ti deve essere spostata qualche manopola, il carrier, quello che è, la potenza, di nuovo quel difetto dell'altra volta, sembri di splatter, fortissima la modulazione, ma sembri di splatter, tocca un po'. Adesso, anche adesso? Adesso è buono, ho capito solo l'ambretta, l'ambretta io manco vista l'ho, cioè con mano non l'ho potuta toccare, non ero nato ancora, ero troppo piccolo, e poi sai cos'è, tra ragazzi, cioè avevano moto moderne, eccetera, e già sono belle le moto d'epoca, io andavo sempre a vederle, quando facevano le mostre in piazza o in altri posti, ma la lambretta com'è, tipo Vespa, motore posteriore, stessa impostazione di guida, giusto? Viaggiare per strada, viaggi lunghissimi, e poi anche sempre molto elegante potevi sedere su quelle moto, a differenza della moto di oggi, che poco poco ti siedi e ti sporchi subito. E abbiamo parlato in due, ho detto Giulio, io purtroppo non ho mai avuto la, non ho mai provata io la lambretta, provata a guidare, ma è tipo la Vespa, no? La guida, no? Motore dietro, il cambio come a manopola lì sul manubrio. La lambretta era una moto che andava fortissimo in salita, più della Vespa, aveva meno spunto della Vespa, però la migliore per me in assoluto, per secondo i miei gusti, è stata la Vespa. La Vespa era la numero uno per conto mio, indipendentemente dal fatto della cilindrata, eccetera. Vabbè, poi parliamo di moto grosse, è un altro discorso, però a me la moto grosse sinceramente non mi sono mai piaciuta. Io quello del consiglio, certificati di morte e basta. Bisogna avere manico e fortuna anche. Poveraccio, da poco, mi pare ieri, uno di Usini o zona Usini ha avuto un incidente e moto è morto, per carità. Vabbè, non ci voglio pensare. Vai, Emanuele. È pericoloso, la moto è bella, ma bisogna andare sempre piano. Ciao Giulio, ben sentito, buonasera anche a te. Avanti giù. Ok, ciao Emanuele. Sì, ma in effetti è così. La moto è un mezzo di trasporto straordinario. Molto, molto bella. Soprattutto appassiona molto i giovani. Però i giovani che camminano in moto con la testa attaccata al collo ce ne sono molto ma molto pochi, ma da sempre, da adesso no, da sempre, a pensare prima avevano la mania di impennare, passavano il semaforo rosso addirittura con la moto impennata, ma quando mai devi camminare in moto in questo modo? Tu te lo stai cercando l'incidente, quando uno fa così l'incidente te lo stai cercando. Ripeto, la moto è una grandissima opportunità di trasporto, però purtroppo manca la mentalità giusta per quasi tutti i giovani, quasi tutti, non dico tutti, ma quasi tutti. Vai Marco. Eia, che poi Giulio, io con lo scooter mio l'ho accantonato anche a parte l'assicurazione che non... Cioè, mi rifiutavo di pagare quella cosa lì per usarla due volte alla settimana, una volta a settimana, tre volte, che ne so, troppo cara per i miei gusti. Volevo tentare di farla online, dove non hanno agenzie, non hanno gente da pagare, per vedere se è più appetibile. Che voglio dire, io l'ho lasciata, io di come guido io sono sicuro, però temo gli altri, cioè le rotatorie ti vengono addosso, agli stop, bruciano gli stop, finché sei in macchina, vabbè, c'è la carrozzeria, magari ti fai qualche livido, ma se ti beccano in pieno in moto sei morto, a seconda di come va. Proprio ho paura degli altri, come guidano gli altri, capito Giulio? Sì, beh certo, ma in effetti è così, bisogna avere paura soprattutto degli altri. Ascoltate mio, se voglio vedere com'è questa radio, perché qua ogni tanto io posso qua, ecco qua, sì, sto andando bene, dai, sto andando bene, sto con le cuffie. Sì, stavo dicendo, la moto è veramente una grande opportunità di trasporto, però purtroppo la gente non guida con la testa, almeno il 90% dei giovani soprattutto sono scellerati, sono degli scellerati. è morto, e questo non va bene, assolutamente. Ah, Emanuele, La gente è fuori di testa, la gente non va bene, no, specialmente adesso che adesso, non so se avete guardato il telegiornale, Casa Vidionira, dopo gli incidenti, con questi cavolo di scrutiduni, Alghero, ultimamente uno ad Alghero lo stesso, un incidente grosso. Lo so, ma quando mai uno non pensa, che sì, su due ruote, non ci vuole niente, non ci vuole un ostacolo improvviso, una scivolata, una persona che ti attraversa la strada e così anche improvvisamente, anche se la colpa non è, può essere tua, per dire. Non gliene frega niente ai giovani, oggi non gliene frega niente, sul passo a destra, passano col rosso sempre, addirittura di tanto in tanto sui marciapiedi. Ma quando mai? Ma quando mai si deve circolare con la moto così? No, non è possibile, basta, non è possibile. Io avrei fatto così, tu hai fatto una minima infrazione, ecco, sequestrata la moto, non multatolo, sequestrata la moto, così in moto non ci vai più tu. E se ci vai la prossima volta, se te ne compro un'altra, ti sequestro anche quella. Vai, Marco. Ehi, poi vabbè, una volta facendo lo scemo sulla Buddy Buddy, volevo tirare un po' la moto, mi scesa, no? O in salita, ma adesso manco non mi ricordo, comunque lo stavo tirando a 120-130 e tanto non ve nessuno, e da lontano vedo uscire dalla stradina laterale delle campagne, no? Un anziano senza fermarsi è uscito così, ha stirato questa frenata, è uscito il fumo dalla gomma di dietro, ma le maledizioni che gli ho mandato, solo che lui, vabbè, aveva la colpa che è uscito senza guardare, ma io stavo andando leggermente da criminale, no? È in una zona che è 50 al limite, vabbè, e quindi ho visto, a voler sciogliere un po' la moto, cosa succede? Cosa poteva succedere? Va bene, fossi stato più vicino l'avrei beccato in pieno e non sarei qua. Che bello, sarei in paradiso, forse all'inferno, chi lo sa. Dipende dai gusti. Poi che altro? Dai, riprendete un po' voi che mi metto un piatto di minestrone. Riprendo io. Tu non l'hai conosciuta, Manuel, la moto, la Lambretta monopattino, non l'hai conosciuta? La primissima moto Lambretta. La Lambretta monopattino in che senso? O giù? Come a monopattino? Forse sì, perché ce l'aveva anche il papà la Lambretta. Probabilmente, ma tu sei troppo giovane, perché io sto parlando di parecchi anni fa, A meno che non è vista dopo, con gli anni, magari da piccolino, quella senza cofani, con due sedili, insomma, esteticamente brutta, quella era brutta, esteticamente, però erano delle moto che andavano a meraviglia, poi le hanno perfezionate, le hanno fatte con i cofani, eccetera, allora il discorso era tutta un'altra cosa, tutta bella, elegante, tu potevi andare tutto bello, elegante, bello profumato, tranquillamente anche a prendere la ragazza, perché lei poteva sedersi tranquillamente e i vestiti non si risporcavano, a differenza di prima, di come la prima Lambretta e di certi tipi di moto, che uno non si può sedere dietro, guarda, se non è quei pantaloni, perché ti sporchi tutto, invece prima era così io, Manuele, erano delle moto abbastanza belle, perché erano soprattutto moto pulite ed eleganti, oggi invece sono solo pesantissime e rumorosissime e allo stesso tempo pericolosissime. Tu mi dirai, la pericolosità dipende sempre dalla testa, sì, è vero, hai ragione, però purtroppo è così, lui la testa, i giovani ce l'hanno ai 420, per cui il discorso è quello, che ti ho detto. Lascia perdere, adesso sono tutti con queste moto scrutiloni, che quando passano ti fanno assurdi pure. E tu stai dicendo quella che c'ha il faro nella, il faro tondo nella, nel palafanco, quella lampetta che stai dicendo tu, con il doppio sedile. Sì, esatto, quella lì, sì. Io mi ricordo quella una volta, no? E allora io ero ragazzino, avevo avuto 14 anni, una cosa del genere. Lavoravo lì di fronte alla, all'Upin Vecchio, il primo Upin del corso, tu magari non l'hai nemmeno conosciuto lì, dalla Fiorentina c'era un negozio di elettricità e dunque vendevamo lampadari, vendevamo un po' di tutto, materiali elettrici eccetera, e poi facevamo anche impianti elettrici eccetera, e mi fa il capo commesso, io Giulio, che andiamo a portare via la paglia dell'imballaggio dei lampadari, lo portiamo alla, in campagna, lo portiamo, e era dietro Santa Maria dove c'era sul la stazione di Pullman, e io mi fa, e come andiamo? E prendiamo un carretto, avevamo un carretto, quello col piede centrale, no? Che le stanghe del carretto rimanevano parallele, orizzontali, non abbassavano fino a terra, perché al centro di questo carretto a mano c'era il piede centrale, c'era, l'avrei conosciuta. Carichiamo questa cassa di paglia, arriviamo davanti alla stazione, allora lì all'angolo della Pruvida, dove c'è la Pruvida, dove abita Gianni il prefetto, lì c'era un rifornitore di benzina allora, quegli anni. Capita, questo cretino prende, accede, mi scappa il carretto dalle mani, mi scappa, perché io ero seduto dietro, no, nella lambretta di quella a due sedili, così, e incomincia a correre questo carretto e finisce, capita, su una giardinetta di quelle macchine con la cabina in legno, l'ha sfondata completamente. Per dire, il giorno un danno fenomenale, te lo immagini, io avevo 14 anni, una cosa del genere, questo deficiente aveva già 27-28 anni, se non addirittura 30, ed era il capo commesso, e gli dicevo vai piano che non ce la faccio se non a tenere il carretto, perché io ero seduto dietro e avevo il carretto che tiravano, e lui ogni tanto faceva il cretino, accelerava per farmi dei dispetti, no? A un certo punto il piede centrale del carretto mi tocca per terra, come era sobbalzato, e dunque me l'ha strappato la mano, e ha incominciato a camminare questo carretto e ha sfondato la giardinetta che c'era lì di fronte alla stazione. Ma tu stai dicendo Lupi quello che c'è, che adesso c'è Zara adesso? No, quello che è giù, dove c'è la farmacia, giù al corso, di fronte ai portici, il primo Upin, quello lì, primo in assoluto. No, l'ho conosciuto io. Io ho conosciuto Lupi, quello che rimaneva, che adesso c'è Zara, hanno fatto. Lì c'era Lupi prima. Sì, perché dal corso si è trasferito pure di dove c'era Zara, esatto. Poi quando la Zara si era trasferito anche via l'Italia, di fronte agli Umi, tra gli accade che sei scuola degli Umi. Sì, ma per dire no. E c'era un rifornitore via la stazione, c'era un rifornitore all'angolo, poi dall'angolo che tu, dopo lavoro ferroviario, quello l'avrei conosciuto, il cinema ferroviario, no? Nella curva lì c'era un rifornitore di benzina, c'era. E quello aveva visto tutto, aveva visto. E questo deficiente, un uomo grande era quello, rispetto a me, io avrei avuto 14 anni, forse non ce l'avevo nemmeno. Fa, io che ce ne andiamo, e la macchina è spacciata, no, non ti preoccupare, che te lo preoccupo io? E io, vabbè, a me non me la frega niente, io, la colpa era tua, perché per te arrangiati, per dire no, ha sfondato la macchina, cioè il carretto ha sfondato la macchina, il cretino, quello lì che dicevo, bel danno hai fatto oggi. Vediamo un po' se c'è Franco o Marco, se sei Marco lì. Eia, sto mangiando, ho sentito un break sotto, avanti, chi vuole entrare? Ho sentito una mini portantina sotto che ha premuto per un attimo come per fare break. Eia, dai, io sto mangiando così me lo levo di mezzo, buono il minestrone, è uscito buono. Non capisco perché, lo stesso minestrone ovviamente surgelato, lo fai un giorno e non sa di niente, lo fai un altro giorno e oggi è bello saporito, dico, probabilmente mamma l'ha corretto, insomma, l'ha fatto meglio, c'è la giusta quantità d'olio, di pepe, buono. Ok, vai Giulio. Eh, infatti il mio sole in questo periodo è buono freddo, a me piace così, riposato, per esempio preparato a pranzo e mangiato la notte, tanto per essere chiari, no? Perché nel frattempo si riposa, prende tutti gli aromi di tutto quello che ci metti, dunque si sente molto, si sentono molto i sapori, tutti i sapori. A me piace così, e non solamente il minestrone, fate fagioli, fate ceci e tante altre cose, anche la pasta con cavolfiore, quella mi piace moltissimo, quando in tanto in tanto me la faccio fare io, da mia moglie, pasta e cavolfiore, lei non le mangia perché no, non può vedere, ma io non so di mangiare un piatto, ma ne mangio anche due piatti, per cui io sono, mi piace molto la pasta così, a brodo, a brodo, diciamo. Vai, Manuel. Mi assento un attimino giù, dai, riprendete voi. No, io mi saluto, dai, io me ne scendo giù, me ne scendo, così faccio compagnia a mia moglie. Ci sentiamo eventualmente più tardi, se coincide, o addirittura domani. Vabbè, dai, ciao Manuel, alle prossime, dai. Ciao Marco, buon pranzo. Ti dico buon pranzo, non buona merenda, buon pranzo. Ci sentiamo domani eventualmente. Ciao, chiudo. Giulio, ci sentiamo da 2010. Vai Marco. Ciao a tutti, dai. Ci sentiamo. E domani qualcosa fate o entrate in radio? Boh. Oh, io vengo di nuovo a casa. Io non ci vado al mare io ad uccidermi sotto il sole. Voi, ma chi me lo fa fare? Mando a casa, se poi ho voglia, vado la sera al fresco a prendere un gelato al mare. Ma solo quando non c'è più caldo forse. Va bene, dai, ciao, ci sentiamo. Ciao a tutti, ciao. Eia, magari in Pinetta. Buonasera. Ciao Marco. Ciao Giulio, sei ancora all'ascolto. E buon altro. Ma Franco, tu sei? Eia, stavo sentendo la modulazione, sempre un po' fine, sottile, va bene, comunque, capibile. No, volevo alludere, hai visto quei due, dov'è, zona, che zona era? Bonovo, dov'era? Due disgraziati con un barbecue, gli è scappata la fiamma, hanno distrutto non so quanti ettari. E non vorrei essere nei loro panni, adesso li fanno pagare tutto. L'incendio ha distrutto anche il deposito Santa Lucia, un bel di danni, poveri loro. Quelli che conviene andare in una banca a prendere un mutuo. O scappare dall'Europa, in un paese senza estradizione. Cesso, mamma mia. Guarda che io, tanti anni fa, ai tempi della mia... Vabbè, che anno poteva essere? 90, 91. C'era il padre dell'allora ragazza, no? E tutta la famiglia, no? Facevano il fuoco in Pinetta, sì, con le pietre intorno, ma hanno messo tanta legna, questa fiamma si è alzata così tanto che stava andando a lambire i rami dei pini, lì ho detto, mamma mia, qua succede casino forte. Infatti l'hanno subito, come si dice, quando lo smorci un po' il fuoco. Ma non si fa una cosa del genere, cazzo, una fiammata che arrivava alle cose degli alberi, cazzo. E meno male che l'hanno fermato in tempo, cioè che l'hanno soppresso in tempo il fuoco. Per arrostire due fette di carne varia un vulcano, sembra un vulcano in eruzione quel fuoco. E poi alla fine vedrai che non si fanno niente, perché ci sono quelli disoccupati che non hanno neanche occhi per piangere, alla fine non si fanno niente, cosa ne fanno? Ammazzare non li possono. Magari pecuniaria no, però cioè, se sono responsabili, se li riconoscono responsabili, credo che almeno il penale glielo diano. Mamma mia, davvero, non vorrei essere in loro panni. Ma io ti dico una cosa, io avrei anche portato questi della forestale, perché questi al posto di andare e farsi giri, sabato e domenica se ne vanno lì fanno un capo, e pagati. Pure. Dice c'è caldo lì, cioè, sono tutti in crisi per il caldo. Mamma mia, certo, anche quello deve essere impegnativo meglio.